come un albero nudo senza te, senza foglie e radici ormai, abbandonata così, per rinascere mi servi qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi, in questa casa perduta ormai, mentre la neve va giù, è quasi Natale, tu non ci sei più. E mi manchi amore mio, tu mi manchi come quando cerco di, e in assenza di te io ti vorrei per dirti che. Di noi